America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Beh, oggi vi parlo da un cantiere, da un cantiere ormai in fase conclusiva su Broadway e la 26esima. È il cantiere della nuova libreria Rizzoli, che ieri di fatto si è aperta in modo informale, prima nella mattinata e poi in serata, con un grande ricevimento. L'apertura al pubblico sarà il 27 ed è, come dire, per me un momento così abbastanza emozionante. Perché? Beh, perché io ho vissuto le tre anime di questa libreria Rizzoli. La prima era sulla Quinta Strada, all'angolo con la 56, c'era una palazzina bellissima, antica, con una grande boiserie, ed era un centro di ritrovo, perché alla sera si andava tutti, noi giornalisti, lì sto parlando metà degli anni 80, figuratevi, alla Rizzoli, perché arrivavano i giornali italiani, e dunque c'era Augustile, e c'erano altri colleghi, insomma c'erano anche personalità della comunità italiana qui. Perché? Perché eravamo nell'era pre-internet, non c'era nulla di tempo reale, e questo qualche volta noi lo dimentichiamo, ma la libreria era un centro pulsante per noi, perché ci portava le notizie sui giornali, sulla carta stampata immediatamente dall'Italia. Poi la libreria si è trasferita sulla 57, dove è rimasta per altri 20 anni, 25 anni, ha chiuso perché la palazzina è stata venduta, e adesso riapre, è una terza reincarnazione. E devo dire che non solo è molto bella, perché dal punto di vista architettonico così vuole raffigurare un po' l'idea di una cattedrale, ci sono soffitti altissimi, c'è come una navata, ma è su Broadway, poco lontano da Italy è sulla 23 e la Quinta, in un quartiere che improvvisamente negli ultimi 4-5 anni è diventato a sua volta pulsante in questa straordinaria città, che continua a cambiare volto ogni anno, ogni 6 mesi, ogni mese, insomma in continuazione. Allora io, con me ai microfoni di America 24, Laura Donnini, che è l'amministratore delegato di RCS Libri, che è arrivata fino a New York per l'occasione. Buongiorno Donnini. Buongiorno a voi. Allora, intanto questo devo dire complimenti, perché è molto bello. Poi ci sono questi affreschi di Fornasetti, e ci sono queste colonne così dipinte di nero, questo pavimento di marmo bianco e nero ispirato ai marmi senesi, se non sbaglio. Ci racconti intanto la storia del design, l'aspetto architettonico. Allora, innanzitutto abbiamo voluto ricreare quella che era l'atmosfera tipica delle due librerie precedenti. La Rizzoli è una libreria unica, fu la prima, una tra le prime librerie indipendenti di New York, su intuizione di Angelo Rizzoli, che voleva trasferire la cultura italiana negli Stati Uniti. E allora abbiamo anche un po' ascoltato i nostri lettori, i nostri clienti, e ci hanno tutti detto che la libreria Rizzoli per loro rimane una sorta di tempio della cultura, un tempio dove immergersi in una dimensione, diciamo, molto intima con i libri, alla scoperta di queste meravigliose opere che sono tipicamente libri illustrati, che quindi, diciamo, non hanno la possibilità di essere trasferite e descritte con i metodi digitali, bisogna toccarli. Da qui la ricerca di uno spazio grande, uno spazio di oltre 500 metri quadri, che in qualche modo, proprio per la sua struttura architettonica, richiama effettivamente una sorta di cattedrale, la nostra cattedrale del libro. Quindi noi abbiamo cercato, da un lato, di recuperare le famose boiserie, che hanno ormai 50 anni di vita, di ciliegio americano con tutti gli intarsi in ottone, e poi le abbiamo integrate con degli elementi un po' più moderni, che in qualche modo ci consentano di fare un passaggio armonico tra la tradizione e la modernità. Ma qual è il business side dell'aprire una libreria oggi a New York, quando c'è Amazon che vi fa concorrenza, quando su internet si trova tutto? Rizzoli innanzitutto in America è sinonimo di libri, i cosiddetti coffee table books, libri illustrati di altissima qualità, di altissimo prestigio. Sono chiaramente libri che rendono poco sul digitale, quindi noi vendiamo bene su Amazon, ma la scoperta, il piacere della scoperta, di toccare, diciamo, spesso anche i materiali con cui sono realizzati i libri, è una scoperta che richiede una fisicità. Per i lettori, e in generale non solo in America ma anche in altre parti del mondo, Rizzoli è sinonimo di alta classe, di alta qualità. Quindi avere una libreria per noi è un elemento essenziale per nutrire, diciamo, un equity, ecco, e un valore di marchio. Quindi come portiamo la cultura italiana a New York? Per esempio, a parte che la gente così vede il marchio Rizzoli, per carità, ma come può Rizzoli, a parte vendere i libri, aiutare la cultura italiana qui? Organizzerete degli eventi, per esempio? Sì, organizzeremo degli eventi con autori, innanzitutto autori nostri, ma non solo, ma anche mostre temporanee. Noi facciamo libri di arte, facciamo libri di fotografia, facciamo libri di moda, quindi abbiamo un evento programmato a settembre con Cindy Crawford, per esempio. Lanceremo a ottobre il libro, il vero libro, la biografia di Armani, quindi ci sarà un grande evento con Armani. Avremo una mostra temporanea di Serafini, con il suo famoso Codex, è stato, diciamo, un libro molto importante, ed è un autore, un artista di fama internazionale. Quindi faremo un lancio del libro per il centenario di Branca, e conseguentemente eventi che sono di natura varia: libri, moda, giornali, mostre fotografiche e anche film. Ecco, la lingua italiana, avrete libri anche in italiano, immagino. C'è stato l'altro giorno, i francesi sono vantati che la loro lingua è la seconda lingua più parlata del mondo, più studiata nel mondo. Ecco, la nostra è ovviamente molto più indietro, però c'è uno sforzo per diffondere la lingua italiana. Ecco, parteciperete anche a questo sforzo, non soltanto portando libri, ma magari incoraggiando, non so, lavorando con l'Istituto Italiano di Cultura? Sicuramente sì, la nostra è una vocazione internazionale, vogliamo portare il Made in Italy, ma non solo, quindi avremo una grande varietà di libri in francese, in tedesco, in varie lingue, quindi sicuramente una buona parte dell'assortimento sarà di libri illustrati, ma non solo, e quindi l'Istituto Italiano di Cultura è un nostro partner, così come Italy e come tanti altri che in qualche modo rappresentano l'Italia. Quindi diciamo un centro internazionale che però ruota intorno all'Italia. Ecco, parliamo di business, perché bisogna parlare di business. Insomma, lo accennavo prima, ma rende aprire, voi avete degli azionisti, quindi saranno interessati, rende aprire una libreria a New York? Beh, la nostra libreria ha sempre avuto, diciamo, dei conti a posto. Chiaramente oggi aprire una libreria ha a che fare molto col mecenatismo, però contiamo anche sulla base dell'esperienza italiana che un buon luogo, quindi capace di attrarre molto traffico e molto pubblico, sia in grado anche di generare del margine interessante. Un po' di cash, che quello serve sempre. Ecco, ho accennato all'inizio che c'erano questi affreschi di Fornasetti che sono molto... Ecco, com'è la storia? Perché non ci racconta? Sono bellissimi questi colori così molto pastello, poetici. Per dare un tocco di modernità, di contemporaneità nel rispetto dello stile classico della nostra libreria, abbiamo chiesto a Fornasetti di realizzare apposta per noi dei murales che riproducessero in qualche modo col suo tocco artistico le città italiane. E quindi noi abbiamo nelle tutte le pareti in alto la riproduzione delle principali città italiane, con dei colori bellissimi, col tipico tocco di Fornasetti. E addirittura dietro al bancone dell'ingresso abbiamo il Duomo immerso tra le nuvole, e questo è un modo per noi per riportare Milano, con la nostra bellissima libreria in galleria, anche a New York. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Ho sempre con me Laura Donnini, amministratore delegato di RCS Libri. Allora, una canzone americana per i nostri ascoltatori. Una canzone ben augurale, Start Me Up dei Rolling Stones. Start Me Up, perfetto, dei Rolling Stones. Stop me up, but never stop, never stop. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!